Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune settimane fa, lo ricorderete, a Milano fu rapita una giovane ex collaboratrice di giustizia e di lì a pochi giorni fu sciolta nell'acido. Correvano 5 giorni di distanza tra il rapimento, verosimilmente avvenuto il 20 novembre del 2009, e lo scioglimento nell'acido, poi, come dire, la tumulazione in un terreno del Monzese 5 giorni dopo, il 25 novembre. Cose che accadono a Milano, cose che accadono in Lombardia. L'ultimo episodio assolutamente sì, per quanto ne conosciamo, altri ce ne saranno, ma moltissimi altri ce ne sono stati. Storie quindi che hanno un nome, hanno un cognome, storie che molti ritengono anche non appartenere a questo territorio, ma vediamo come scoprire che invece queste storie appartengono al nostro territorio. Nomi, fatti, scie, dico che in una regione normale dovrebbero avere il rumore di una cascata, invece qui continuano a bisbigliare come un rivolo, ma non si può stare impuniti, non continueremo a stare impuniti in una nazione dove l'articolo 4 della Costituzione obbliga tutti a concorrere alla crescita morale e materiale di questo paese. Finiremo in una regione dove addirittura informare e fare i nomi è diventato un enorme eroico atto di coraggio. Non si potrà stare lungo impuniti a forza di fare i sordi o fare i ciechi. Finiremo mangiati, comprati, giudicati, annessi o complici, perché il silenzio è complice. Allora, la voce che avete sentito è quella dell'amico Giulio Cavalli, istrionico genio del teatro, come mi piace definirlo, che ha calcato le scene proprio con uno spettacolo che si chiama Nomi, Cognomi e Infami, che poi è diventato un libro che porta lo stesso nome. Buongiorno Cavalli. Ciao Roberto. Allora, io ricordo così en passant, ma è bene ricordarlo, perché quando quest'estate mi sono incontrato con Giulio, ho avuto il piacere di assistere al ringraziamento di Giulio in una serata pubblica agli uomini della sua scorta. Vi assicuro che non è così comune. Quest'uomo, lodigiano, vive in Lombardia sotto scorta. Mi piace ripeterlo perché non è uno status symbol, è una costrizione in cui l'uomo viene costretto a vivere. Chiudo la parentesi. Giulio, mi ha colpito molto questa frase, ovviamente, che tu hai detto in questi 36 secondi che abbiamo ascoltato, cioè finiremo con l'essere mangiati e il silenzio è complice. Spiegaci un po' meglio come raffiguri questo nel tuo libro e oltre che nel tuo spettacolo. Ma l'ha detto la Boccassini, chiaramente, durante i 300 arresti di luglio. Ci sono delle storie e ci sono delle situazioni, secondo me, soprattutto in questo momento nel nostro paese, che non concedono indifferenza, che chiedono che ci sia un risveglio della coscienza civile, politica, culturale, ma anche quotidiana di tutti, perché su questa indifferenza purtroppo si sono impiantate e continuano a pascolare le famiglie criminali che abbiamo sempre ritenuto lontane. Assolutamente, che invece lontane non sono. Quanto e come ti ha colpito la storia di Lea Garofalo, questa giovane ex collaboratrice di giustizia? Io dico ex perché in realtà è una storia molto tormentata, quella del rapporto, del suo rapporto con la giustizia. Prima è entrato in un regime di protezione, poi ne è uscita, ha frequentato l'ex convivente, poi lo ha lasciato, insomma una storia molto brutta. Io sto leggendo in questi giorni l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, devo dire che ci sono dei risvolti abbastanza inquietanti. Ma tu come l'hai vissuta questa storia, Giulio? Ma guarda, c'è un aspetto profondamente personale, perché tra l'altro lei è sparita proprio il giorno in cui io ricevevo le pallottole fuori da un teatro proprio a Milano. Sì. E quindi a poche centinaia di metri usciva l'aspetto più peloso dell''ndrangheta. Lì ci sono due aspetti, secondo me, da considerare. Uno, vabbè, che l''ndrangheta non può sopportare di avere familiari che parlino. Certo. Questa è sempre stata la sua forza rispetto a Cosa Nostra, per la credibilità nel mercato della cocaina e dell'eroina. E l'altro è che un fallito attentato di Lupara Bianca giù nel profondo sud, si è riuscito a organizzare e a portare a compimento su... Assolutamente una considerazione correttissima e molto interessante, e la condivido appieno. Sentiamo un altro momento dello spettacolo che poi appunto è diventato il libro Nomi, cognomi e infami di Giulio Cavalli. Ci sono anche i morti ammazzati in Lombardia, dove la mafia non esiste. Un cadavere è stato trovato un sabato mattina, sabato 27 settembre, era in un prato, San Giorgio sul Legnano. Cataldo Aloiso, 34 anni, 34 anni e un buco della pistola che dalla bocca gli arrivava alla nuca a 200 metri. La nebbiolina di primo mattino scontornava il cimitero dove riposa in pace, benché con la faccia spappolata, Carmelo Novella, che due mesi prima, il 15 luglio scorso, era stato ammazzato in un bar a San Vittore Olona, 3 colpi di pistola, pieno viso, viso a forma di patè, e riposa in pace. Milano, Lombardia, Nord Italia. È solo cronaca nera, no? Gomorra è già qua. Allora, Gomorra è già qua, sono in pochi a recitarlo, sono in pochi a dirlo, siamo pochi, io dico, a scriverlo, pochissimi forse a pensarlo. Dico male, Giulio, dico bene? Beh, certo, siamo ancora molto indietro, siamo nella fase dell'alfabetizzazione. Ogni tanto scimmiottiamo un po' l'antimafia, ma non abbiamo ancora spiegato bene che cos'è la mafia. Però io sono molto ottimista, ti dico la verità. Perché girando l'Italia, da Via D'Amelio a Casal di Principe, nel libro lo racconto, ho scoperto un'ondata di giovani invece che stanno combattendo e che si sono già fatti carico. E forse questo ottimismo è anche, come dire, anche una spia luminosa che si accende in un territorio solitamente molto omertoso quale la Calabria. Hai visto che c'è stata una certa reazione negli ultimi tempi, questo lascia ben sperare, credo. Certo, guarda, io ho un ricordo piacevolissimo di una mia serata giù a Cosenza in cui ho trovato un affetto molto più sincero e meno pubblicitario invece di molto spesso quello che trovo in Lombardia. Ecco, allora noi abbiamo avuto il piacere di parlare con Giulio Cavalli del suo libro Nomi, cognomi, infami, che in realtà è stato soltanto lo spunto per parlare di mafie al nord, di consapevolezza, di coscienza civile, di come dire, antenne alzate, di comportamento virtuoso da parte di tutti. Ringrazio Giulio Cavalli, così come ringrazio in regia Paolo Corleoni e in studio Valeria Coffaro, e Roberto Carullo vi dà appuntamento a domani. Vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri e la mail sottotiro@radio24.it. Mi raccomando, raccontate e segnalateci le vostre storie o le storie che conoscete di mafia, sì, ma soprattutto di antimafia, di resistenza alla penetrazione delle mafie nel nostro territorio. Buona giornata a tutti.